Gigi Buffon ha usato la parola vergogna, così Franco Arturi stamane sulla Gazzetta dello Sport. Per la fuga di notizie, noi forse ingenuamente pensavamo che quel termine potesse essere meglio impiegato per i giocatori che vendono e comprano le partite, per i dirigenti che fanno lo stesso sono ciechi, per i tifosi delinquenti che minacciano, picchiano e inquinano. Poi, al quinto o sesto posto della classifica della vergogna, ci si possono anche inserire alcuni storici peccatucci di certi magistrati, che però non si inventano le schifezze che sta producendo il mondo del calcio. Questo era Franco Arturi sulla Gazzetta. Sul Corriere della Sera, Mario Sconcerti: temo che Buffon abbia solo anticipato quello che succederà nelle prossime settimane, via via che il timore della gente per la sorte delle proprie squadre porterà a cercare un altro colpevole. E i media in questo senso sono sempre i primi sospettati, perché la colpa viene tramite loro, sono loro che la raccontano. Ma è sempre successo così. Si parte da un'infinita voglia di ripulire tutto e si arriva sempre al piacere di dar la colpa al mondo, comunque a un altro. È successo con Moggi, succederà con le scommesse. Impossibile trovare un'evidenza che tenga. C'è però qualcosa di più profondo nelle dichiarazioni di Buffon, sono convinto siano sincere, solo poco logiche. Il problema non è perché i giornalisti sappiano presto le cose, ma se le cose sono vere. Il problema sarebbe se raccontassero cose sbagliate. Saperlo prima degli altri è il loro mestiere. Buffon fa il mestiere che fa perché è il migliore, nessuno gliene ha mai fatto una colpa. In sostanza, Buffon dovrebbe seriamente capire che il peccato sta in chi lo commette, non in chi lo racconta.